Sta a sentire. Cavalco gru e tralicci. Conquisto tetti di carceri e cie. Taglio le recinzioni. Curo la vigna e il campo e sfido il tuo cemento. 23, 24, 25 novembre, la terra trema, la fiera indipendente dell'enogastronomia eversiva, la festa contadina che dà una scossa all'agricoltura italiana per la sesta edizione Tornello in Cavallo di Milano. Festeggeremo la vita, con vini importanti vignaioli sconosciuti, tra degustazioni guidate e assaggi frontali, incontri e momenti di approfondimento, cena e filiera zero, concerti, DJ set. Quest'anno inizieremo un giorno prima, giovedì 22 novembre alle 21 a Leoncavallo. Per la prima volta vi invitiamo a un dibattito pubblico, una riflessione sugli strumenti della resistenza, progettualità concrete e la potenza dell'autogestione. La Terra Trema 2012, tengo la posizione. Giovedì 22 dalle 21, 23 e 24 novembre dalle 15 alle 22, domenica 25 dalle 13 alle 20, laterratrema.org.